La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mi chiamo Maurizio Piscopo, ho 60 anni, sono nato a Favara ma per diverse ragioni sono finito a lavorare a Palermo. Mi sono formato nella scuola di Sciascia, di Buttitta e Bufalino. Per me fare maestro significa aiutare bambini a leggere tutto criticamente e a leggere soprattutto le stelle, a sognare e a difendersi dalle prepotenze del mondo di oggi. Giuseppe Maurizio Piscopo ha 20 anni, è appena tornato da Parigi dove è stato per studiare e per vedere. È tornato a Palermo perché ha avuto la cattedra come maestro alle elementari. Quella di oggi è dunque la prima volta di un maestro, Maurizio Piscopo, e di un lavoro tanto importante quanto spesso bisfrattato. Il messaggio che vorrei passasse fosse quello di maggiore attenzione nei confronti dei maestri, perché questa è una società senza maestri, e che la radio possa ritornare nelle mani dei bambini, perché la radio è sempre stata, quando c'era la radio nelle scuole, molto formativa, soprattutto per il linguaggio, per la parola, per la fantasia, per il sogno che può dare diciamo, ai bambini che hanno bisogno di sognare, di fantasticare. Ecco, allora... Non è pericolosa come la TV. Senta, maestro Maurizio Piscopo, noi abbiamo deciso di chiamarla perché ci è piaciuto moltissimo il suo percorso, insomma, quello che lei è come maestro ma anche come persona, quindi musicista, una persona che si impegna, sta insieme agli amici ma per stare insieme alle persone e portare un messaggio, no? Io nella scuola faccio musica e letteratura. Probabilmente non è manco concepito il fatto di fare la letteratura con i bambini, però attraverso le storie che scrivo, i racconti, noi cantiamo, e sogniamo, discutiamo. I primi 15 minuti parlano i bambini nella scuola, nelle classi dove io vado, e io mi siedo accanto a loro. Per esempio scrivo una frase come I care e ricordo Don Milani. Quest'anno ho voluto ricordare Don Milani, che è un mio grande riferimento, come Francesco d'Assisi. Io ho scelto di fare maestro proprio ad Assisi perché ritenevo che questo fosse un lavoro molto importante, perché l'infanzia di oggi è in grande sofferenza e gli adulti forse non se ne accorgono. I bambini sono molto sensibili e certe volte reagiscono così quando scrivono, quando parlano, assimilano questo mondo insicuro e soprattutto violento che gli sta attorno. Infatti una delle mie composizioni più importanti ha come titolo La città rubata ai bambini, e io l'ho voluta scrivere in un giorno in cui è stato ucciso Falcone, perché i bambini a Palermo venivano svegliati dalle sirene e anche loro hanno vissuto queste paure, questa sofferenza totale della prepotenza della mafia che ha cancellato i loro sogni. Insegnare ai bambini la solidarietà, il rispetto degli altri e l'amore attraverso lo studio della nostra storia di migranti. Fa anche questo il maestro Piscopo quando porta in classe la fisarmonica e la storia di Margherita. Fu un viaggio lungo, doloroso e amaro. Cumari sempre in tempesta. Centaiorna in terza classe, in tapanza da nave. Una fuggia di disperati, ittate in terra come armala. In Tanagnoni c'era una famiglia, Tano Marruni, Grazia, sua moglieri, e una piccelidra che poteva avere sia 9 o 7 anni. Durante la traversata piccelidra s'ammalò, non parlava più. Ci venne una frevi sconosciuta che la tormentava notte e giorno. I dottori di la nave non si capacitavano, non sapevano che fare, perché ogni cura che tentavano era inutile. Sua madre non la lasciava un minuto. Stava già assettata in terra, capiccioleggia ammrazza, e la tagliava, mentre che labbra sussurrava preghiere. Poi, una sera fredda, con un cielo nivoro, senza una stigia, a Piccirida che si chiamava Margherita, s'addormisce e un si svegliacchio. Sua madre non ne voleva sentere della sala e si scingiva ancora più forte a petto. Il capitano ce lo disse chiaro che Piccirida era morta e che bisognava seppellirla a mare. Seppellirla a mare. Ci vuole coraggio a dire chisto a una madre che ha cresciuto la figlia a mezzo istenti, senza farci mancare niente, levandosi i pane di mucca. La madre non parlò e non chiancì. I lacrimi le si erano asciugate tutte. Poi pigliò a Piccirida, accominciò a basarla mentre l'accarezzava. Ci pettinò i capigli, facendoci dutrizi come piacevano a Ida. Poi s'ascingì forti, forti in petto e accominciò a cantare a ninna nanna che ci cantava per farla addormiscere. Poi la adagiò piano piano entro la cesta che le aveva dato il capitano. Le sistemò tra le braccia l'unico suo giocattolo, una bambola di pezza vestita di stracci, a cumio, ca copertina celeste come i suoi occhi, e la calò nel mare in tempesta. Mentre tra sé diceva: va Margherita, va, va a mezzo mare e fatti collare dalle onde e ven a pigliami presto, prima che finisci il viaggio, perché senza di tia all'America non ci posso stare. Vedi che t'aspetto, capito? T'aspetto. E per tutta attraversata grazie a un parlocchio e un manciocchio, e una mattina la trovammo morta. Abbiamo seppellita a mare e mentre la calavamo, tagliandola, mi pariva che arridiva, mi pariva che era contenta. La prima volta a cura di Cristina Carpinelli. Maurizio Piscopo è un maestro di scuola elementare, ha 60 anni. Ai suoi alunni racconta che la vita è bella e che il dolore si può affrontare se si sta uniti e si parla. Ai suoi bambini il maestro parla, ma soprattutto è un maestro che ascolta. A me hanno fatto una domanda l'anno scorso in prima: quali sono i segreti degli alberi? È una domanda che fido io a rispondere a questa, a rispondere bene. Bambini di prima, ebbene, ho chiesto 3 giorni di tempo per potermi documentare e poter dare una risposta adatta all'età di 6 anni, e ho dato una risposta che poi ho visto nei disegni che mi hanno fatto, che cosa può essere, diciamo, un adulto che si accosta serenamente con quello che ha, con le proprie ricchezze e le proprie debolezze. E poi io uso una fisarmonica e suono quindi attraverso questa fisarmonica le storie del mondo, e noi cantiamo canzoni e storie che nessuno ha mai raccontato. Alcune le ho scritte io, altre le ho prese da Rodari, da Lodi, insomma ho musicato un po' di tutto, autori russi, e tutto quello che mi piace lo racconto con una storia piccola, perché una canzone può valere più di un saggio. E le sue canzoni sono molto apprezzate, cioè ovviamente lei è ancora un fenomeno di nicchia, però. Sì, io ho pubblicato con piccoli editori e anche ora sto pubblicando un libro con Salvatore Ferlita dal titolo Quando si partiva per la lontana America, in cui racconterò con Salvatore Ferlita le storie e con le foto di Angelo Pitrone e le canzoni di un mondo che molti non conoscono assolutamente, quello che noi abbiamo sofferto per arrivare in questo paese lontano, tutte le umiliazioni, le sofferenze del nostro mondo. E ho trovato difficoltà con i grandi editori, ma a me ormai non interessano più i grandi editori, a me interessa poter dire la mia, perché ogni giorno quando io lavoro con i bambini mi sento realizzato, quindi le altre cose, certo è un sogno poter dare in mano ai bambini la radio, fargli fare i programmi a loro, parlare con loro, sarebbe bellissimo, ma non so se un giorno ci riuscirò. Ho tentato tante volte questa storia. E poi sono in un'orchestra originale, un'orchestra di musica da barba che non esiste in Italia e nel mondo, e ha incuriosito tanto che ne abbiamo fatto uno spettacolo con Massimo Venturiello nei teatri di Roma e di Milano, e a ottobre riprende a Catania. E lei in tutto questo, no? Perché comunque il suo filo rosso nella sua vita sono i bambini, cioè il messaggio va sempre a loro. Lei quando scrive, quando suona, quando Sì, insegna, è ecco. proprio così. Le volevo chiedere questa cosa, lei se lo ricorda il primo giorno che ha insegnato? Certo, me lo ricordo con un bambino che ha sbattuto la testa alla lavagna perché correva e mi sono anche un po' spaventato, però subito ci siamo ripresi, è stato anche molto bello. Io parlo di scuole difficili di Palermo, dove sono andato a insegnare, erano scuole proprio diciamo, dove c'era delinquenza, dove c'erano situazioni veramente difficili, e in una di queste scuole ho ricevuto un riconoscimento dal Presidente della Repubblica Ciampi per l'impegno nelle scuole a rischio di Palermo, appunto, perché con loro ho fatto i convegni, la TV ai bambini, per un uso ragionato della televisione, cinema e bambini della Sicilia, insomma, facevamo dei convegni in cui i protagonisti erano i bambini che si sedevano a posto dei professori, e siamo andati anche all'università, insomma, abbiamo fatto delle cose capovolgendo la pedagogia, una pedagogia che partisse dal basso. La prima volta che ha insegnato, cioè quanti anni aveva, che emozione provava, cioè quali erano i suoi sogni in quel momento? Perché questa è una cosa che a me interessa, anche capire un maestro la prima volta che insegna che cosa. Io ho insegnato, diciamo, credo avrò avuto una ventina d'anni, 19-20 anni, e avevo lasciato Favara, ero andato già a Parigi, avevo fatto già questa esperienza, e ero molto emozionato, avevo paura di non poterli tenere, non sapevo come avvicinarli. Poi piano piano ho imparato, vedevo intanto che loro mi guardavano molto, mi osservavano, e quindi ed è partito un rapporto molto bello che è continuato sempre nel tempo. Certo, un po' di paura l'avevo, perché vedevo tutti questi bambini, li dovevo tenere tutti insieme, li dovevo tenere uniti. Ora l'esperienza mi aiuta, non ho più di queste paure. Quando arrivo nella classe già loro mi aspettano con gioia. Poi ho tanti strumentini e li faccio suonare pure con gli strumenti insieme a me, insieme alla mia fisarmonica, e quindi per loro questo è il fatto di fare l'orchestra, e quindi diventa una cosa molto bella, perché cantare è in un certo qual modo pregare due volte. Io ho utilizzato sempre la fisarmonica a scuola dal primo giorno, la tengo lì in classe sotto la lavagna, e loro stessi mi dicono di prenderla, quindi anche il primo giorno li ho fatti cantare, anche se è successo quell'incidente, le ripeto, però abbiamo ripreso subito tutto quanto. Il bambino non ha neanche pianto, mi ricordo che questi bambini di quartieri difficili riescono anche che giocano per la strada, che insomma così, che vivono con le difficoltà, non piangono neanche in quel momento che ha sbattuto la testa. Autore di storie, canzoni, musiche e racconti per i bambini di tutto il mondo. E questo è il maestro Piscopo. Ed è questo, in fondo, che ci si dovrebbe aspettare quando si parla di scuola primaria.